Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, temi tutti italiani oggi, perché da un lato il Premier Matteo Renzi nel suo intervento alla Camera, come già annunciavamo ieri, ha parlato soprattutto di economia e di scenario economico, anche perché andava a commentare e ad analizzare il programma dei mille giorni. E già i nostri GR24 vi hanno ricordato come, insomma, il titolo principale sia: attenzione, i mille giorni sono l'ultima chance dopo il tempo perduto, le riforme producono la crescita, basta con il benaltrismo, cioè con chi dice che i problemi sono ben altri. E ancora, poi arriveremo nel dettaglio sul fisco, sugli 80 euro e quant'altro. Però è sulla riforma del mercato del lavoro. L'altra notizia riguarda invece il rapporto del Centro Studi Confindustria, che ha rivisto, come ieri già ha fatto l'Ocse, le previsioni su quest'anno. Mettiamoci il cuore in pace. Noi modestamente lo diciamo da luglio, che tutti gli indicatori che arrivavano erano negativi. Quest'anno chiudiamo in recessione, meno 0,4% secondo l'Ocse, meno 0,4% anche secondo il Centro Studi Confindustria. La cosa che così preoccupa di più non è solo l'ennesimo scorno di un anno in cui, visto come si era chiuso il 2013 con una leggera crescita, tutti si attendevano un aumento del PIL, per quanto non enorme, dello 0,8 inizialmente, poi Renzi si spinse a dire l'1%, forse con l'effetto degli 80 euro, e mo invece facciamo un altro anno di recessione. Il problema è anche sul 2015, perché anche il Centro Studi Confindustria, ne parleremo dopo con il direttore, che ha quindi elaborato oggi le nuove previsioni, stima un 2015 di crescita molto modesta, uno 0,5%, ma tutta da conquistare. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che, entrando nel 2015 in frenata, perché l'economia entrerà nel 2015 con il segno meno, beh, insomma, se tu devi fare una media, un po' come una media di velocità in macchina, se devi fare una certa media e parti frenando, ti tocca correre moltissimo nel resto dell'anno, e quindi per arrivare a uno 0,5 vuol dire che in alcuni trimestri l'anno prossimo dovremmo fare più 1 per poi far media. E che cosa è mancato all'appello? Lo analizzeremo. Soprattutto devo dire, l'export non è cresciuto come nei trimestri precedenti, gli investimenti industriali in macchinari e quant'altro non sono cresciuti come nei trimestri precedenti, i consumi sono rimasti deboli, non sono peggiorati, anzi hanno dato anche un leggerissimo segno di crescita, però siccome sappiamo che i consumi sono ai minimi, mentre quello che teneva era l'export, vedere un rallentamento dell'export per via sia della crisi ucraina, ma soprattutto anche della frenata in Germania e in Francia, cioè voglio dire, se i nostri partner commerciali principali frenano, è difficile che riusciamo a esportare molto lì. Beh, ecco, a guardare le cose, fermo restando che i consumi come livello sono ai minimi, l'export no, però quello che è mancato come contributo è più relativo all'export che non ai consumi, da cui nessuno si attendeva grosse novità, o grosso aiuto per essere più precisi, e di questo parleremo nella seconda ora del programma. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, vedo anche per inciso molti messaggi sulla durata del programma di Oscar Giannino. Abbiate fede, stiamo lavorando anche su quello, e quindi grazie per i consigli che ci date. Il palinsesto è sempre fatto comunque di un'architettura e di vari pezzi, e poi ognuno di voi ha le sue preferenze, però abbiate fede, qualche novità forse la presenteremo. Ma andiamo avanti invece con il programma. La borsa, mezzo punto percentuale di calo a Milano come a Francoforte, come a Parigi. Parigi anzi lo 0,70% il calo, e Londra meno 0,34%. Per quello che riguarda i titoli, oggi bene Fiat più 1%, Eni più 0,90%, Wood Duty Free mezzo punto percentuale di rialzo. Tra chi perde molto invece, Jux perde il 5%, poi di nuovo il Monte dei Paschi, meno 3%, come Telecom Italia, il 2,5% lo cede Autogrill e anche la Popolare Emilia Romagna, il 2,30% è il calo di Azimut, il 2% quello di Mediolanum, Buzzi Unicem, il Banco Popolare, ma anche A2A e Unipolsai. Euro fermo quota 1,2941, vedremo se da un euro... se l'euro si stabilizzerà a un livello di 1,29, 1,28 rispetto a 1,37, 1,38 dei mesi scorsi, se questo non darà anche un piccolo aiuto ulteriore alle nostre esportazioni. Vedremo. Andiamo intanto, dicevo, con le altre notizie della giornata, e abbiate pazienza su Confindustria e su Renzi. Per quello che riguarda invece le banche italiane, faccio notare che ad agosto si è attenuato il calo dei prestiti, cioè continuano a calare i prestiti delle banche, ma calano meno. Scusatemi, è un meno 2,3% contro un meno 2,5% di luglio. E per le famiglie i prestiti sono scesi dell'1,1% e l'ABI fa notare che è il miglior risultato da luglio 2012. Certo, ma continua a esserci un segno meno. È il meno più basso, è il segno meno più basso, ma ancora un segno meno sui prestiti alle famiglie e alle imprese. Il tasso medio sulle nuove operazioni è ai minimi dal giugno del 2011. Il tasso medio praticato sulle nuove operazioni cala al 3,19% contro il 3,23% di luglio. Allora, di Europa parliamo molto in questi giorni, anche per quello che è successo durante il vertice Ecofin, il rischio commissariamento è stato il tema nostro di ieri, l'abbiamo chiamato la Troika Light. Devo dire che da quello che leggiamo anche oggi non è un rischio che vediamo solo noi, alcune indiscrezioni citano anche nell'incontro tra il Presidente della Repubblica Napolitano e il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, il fatto che insomma il rischio che se l'Italia non fa queste riforme, non le mette in cantiere e in pratica, il prossimo passaggio sarà un quasi commissariamento del nostro paese, è un rischio che non vediamo solo noi. Ma dicevo, oggi di Europa si parla anche perché c'è un vertice tra i ministri a Milano, un vertice informale tra i ministri europei dei trasporti dedicato ai famosi corridoi europei, il corridoio 5 per quello che riguarda l'Italia, anche il corridoio 8 è quello che riguarda sempre l'Italia. E il nostro Sergio Nava ha raggiunto il commissario europeo dei trasporti Siim Kallas e gli ha chiesto anche quale dovrebbe essere l'esito di questi incontri, e gli ha chiesto anche di Alitalia, perché aspettiamo ancora per l'operazione con Etihad il via libera definitivo della Commissione europea. We have the Trans-European Networks legislation adopted. La legislazione sulle reti transeuropee è stata adottata alla fine dell'anno scorso. Abbiamo 26 miliardi di euro in finanziamenti disponibili. La struttura è lì e il concetto dei corridoi infrastrutturali c'è. Ora occorre implementare il tutto e passare all'azione. Mi aspetto da questi due giorni di discussione a Milano un piano concreto su cosa fare ora. Un tema sempre molto sensibile in Italia è quello della TAV, la cui costruzione al di qua delle Alpi è stata molto contestata. Siete preoccupati a Bruxelles per la prosecuzione dell'opera? Per quanto di mia conoscenza, i problemi fra la Francia e l'Italia sono stati appianati. Ora il problema è portare a compimento il progetto. Mi aspetto che l'amministrazione italiana si impegni seriamente nella realizzazione del progetto. Darete il via libera all'operazione Etihad all'Italia? Lei tocca un tema sensibile che condividiamo con i nostri colleghi della concorrenza. È troppo presto per darle una risposta, stiamo ancora valutando il dossier, non posso dirle nulla oggi. Quando darete la risposta? Non lo so, ma non dovrebbe mancare molto. Avete annunciato pochi giorni fa fondi pari a 11,9 miliardi di euro per migliorare i trasporti in Europa, concentrandoli in particolare sulle grandi reti infrastrutturali. L'Italia come ne è coinvolta e quanta parte di fondi potrà ricevere? Ora tutto dipende dai progetti concreti e dalla qualità di questi progetti. Valuteremo sulla base della lista dei progetti prioritari e vedremo quali sono i progetti di maggior successo. Quindi attendiamo poi per via libera della Commissione Europea. Vedo un messaggio che sintetizza un po' quello che è il ragionamento sui prestiti bancari. Scrive un ascoltatore, dice: complimenti signora, suo figlio ha preso 4 in matematica, di solito prende 2, avanti così, forza. È un po' così, nel senso che i cali ai prestiti delle banche nei confronti di imprese e famiglie continuano e c'è sempre il segno meno. Dopodiché l'ABI fa notare è il meno più basso, è il meno più meno che abbiamo avuto in questi anni, appunto, come se uno invece che prendere 2 prendesse 4. Uno può anche vederlo come un progresso dello studente, da lì a dire che sei contento di tuo figlio ce ne passa, ecco, questo l'ABI ce lo concederà. Ultima notizia prima di passare invece all'intervento del Presidente del Consiglio. Vedo molti messaggi che dicono: ma noi 1000 giorni non li abbiamo. Darò una risposta anche su questo. L'ENIT, il mitico ente che dovrebbe promuovere il turismo italiano, riesce a fatica a promuovere se stesso, a pagare gli stipendi ai suoi dipendenti. Allora, che è successo? L'ENIT era rinato nel 2004, ma non ce la fa proprio a promuovere il nostro turismo. È commissariato dallo scorso giugno e riceve comunque quasi 20 milioni di euro all'anno dal Tesoro. Perché è finito nel mio della Procura di Roma? Perché c'è stata una denuncia della FIALP, la Federazione Indipendente Lavoratori Pubblici, che ha avanzato perplessità sulla nomina del direttore generale Andrea Babbi nel settembre del 2012. Infatti Babbi non solo percepiva 180.000 euro lordi dall'ENIT, ma vantava anche un'altra serie di incarichi, ben 9 nel 2012, tra consorzi, SRL, associazioni e banche. Sotto la lente dei magistrati sono finiti anche viaggi e consulenze. Però io non ce la faccio a leggerlo con questo. Mi date una maiella, perché io ogni volta che parlo dell'ENIT ho delle reazioni epidermiche, nel senso che le abbiamo tentate tutte su una cosa che ripetiamo sempre, che il patrimonio artistico culturale di questo paese è il nostro petrolio, il nostro oro, il turismo. Poi andate a vedere come lavora l'equivalente dell'ENIT francese e tedesco, e poi chiediamoci se anche per come abbiamo gestito l'ENIT, buttato via i soldi ma senza neanche fare promozione, siamo scivolati in 30 anni dal primo posto come destinazione turistica al mondo al quinto. Ora, ho capito che ci ha superato la Cina, e vabbè, la Cina è grande, ma la Francia no, la Gran Bretagna e altri paesi no. Allora, forse non aver saputo sfruttare l'ENIT a qualcosa ha contribuito, e visto che si parla tanto di enti inutili, adesso vediamo di capire che cosa è finito sotto la lente dei magistrati, dopodiché chiudiamo sto ente e basta, e facciamo fare la promozione in un altro modo. Non se ne può più, ogni volta che si prova a riformarlo buttiamo solo soldi dentro e abbiamo racconti allucinanti. Vai. Vai, così vediamo se in questi 1000 giorni si riesce anche a fare piccole cose. Andrea Babbi, dicevamo, nominato nel 2012 come presidente come direttore generale dell'ENIT, non solo 180.000 euro lordi ma anche gli altri 9 incarichi, e vabbè. Ma i magistrati hanno detto: attenzione, ci sono viaggi, consulenze e spese che riguardano anche altri dirigenti dell'ente che non riusciamo a giustificare. Nel 2013, l'anno scorso, quindi già dopo anni di spending review, di attenzione alla spesa pubblica e di, diciamo così, nostri approfondimenti su questo, l'ENIT ha speso 26 milioni di euro. Come li ha spesi? 12 li ha spesi per il personale. E vabbè, 3,3 figurano sotto la dicitura spese generali, 8 milioni se ne sono andati per le spese promozionali e 2 milioni per i trasferimenti. Ora voi capite che su 26 milioni spenderne 8 per le spese promozionali, ammesso non concesso che abbiano siano tutte efficaci, ma di cosa stiamo parlando? Non ci fai nulla con 8 milioni di promozione sull'Italia, dovresti andare su mercati specifici, su segmenti specifici, targetizzare i possibili visitatori, vabbè, 8 milioni. Non è tutto, 1 milione e 400.000 euro sono serviti per l'affitto dei locali e spese di condominio. 1,4 milioni è un po' tanto per un affitto. Perché? Eh beh, perché l'Enit ha una sede a Madrid, una sede a Londra, che da sola costa 410.000 euro l'anno. Ma levategli la sede, a parte che 410.000 euro l'anno non si può sentire. Levategli la sede, usate questi soldi per fare promozione. Sai quanti biglietti aerei, quanti stand, quante mostre riesci a fare con 410.000 euro l'anno? Ma c'è pure un edificio a Toronto, un altro a Los Angeles, un altro a New York e un altro a Francoforte. L'affitto a New York costa 233.000 euro l'anno, l'affitto a Francoforte 170.000 euro. Allora, voi direte, beh, le cose sono cambiate? No. Per l'anno in corso nel bilancio si prevedono spese di 24 milioni, quindi alla faccia della review, non c'è niente da fare review qui, di cui 19 per spese di funzionamento in conto capitale. Ok, perfetto, cioè per mantenersi in vita. Chiudiamolo e basta. Poi con questi 24 milioni piuttosto organizziamo iniziative da qua e andiamo di volta in volta nei vari paesi, anche perché non so se le sedi a Madrid, Londra, Toronto, Los Angeles, New York e Francoforte, non ho capito il criterio con cui vengono scelte. Magari sono più utili sede in paesi asiatici, non so, dove ci conoscono meno, magari in mercati emergenti, non lo so, me lo chiedo. Mi sembra che non ci sia nessuna razza, mi sembra un mondo degli anni 80, Madrid, Londra, Francoforte, Toronto, Los Angeles. E comunque, visto che i soldi li spendete per mantenere la struttura e restano 8 milioni di promozione, cosa vuoi fare con 8 milioni di promozione? Vi prego, chiudete l'Enit, non se ne abbia il direttore generale Andrea Babbi, tanto se mantiene anche gli altri 9 incarichi, su, ce la può fare. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook, e adesso i 1000 giorni. Fate notare che sono quasi 3 anni, un po' di meno diciamo, però dico subito, così mi beccherò qualche insulto, il punto non sono solo i 1000 giorni, è chiaro che per fare alcune riforme è inutile pensare che tu smonti un paese dopo che per 20 anni non si è fatta una riforma degna di questo nome, tu smonti un paese in 20 mesi o in un anno e basta, però alcune riforme hanno bisogno anche di tempo prima di vedere i risultati. Penso alla riforma del mercato del lavoro, penso anche alla sburocratizzazione. L'importante è farle, non solo metterle in cantiere, realizzare i decreti attuativi, e che 1000 giorni sia il tempo ultimo, per, non per tutto, ma per le ultime riforme, per quelle che necessitano di più tempo, per cui che sia veramente quella che gli inglesi chiamano deadline. Allora, i 1000 giorni di Renzi. Parlavamo del rischio troica, commissariamento troica light. Oggi ospite del nostro Giovanni Minoli a Mix 24 c'era il portavoce, il commissario europeo Katainen, il falco finlandese, che già subito ha avuto un botta risposta con Renzi. Lui si chiama Simon O'Connor, parla bene in italiano, e Giovanni Minoli ha chiesto in maniera molto diretta e semplice: c'è un rischio troica, cioè commissariamento per l'Italia, sì o no? Posso dire che di questa ipotesi non sta parlando proprio nessuno qui a Bruxelles, È una cosa che si legge solo sui giornali italiani. Senta, ma guardando gli attuali dati di bilancio dell'Italia, lei prevede una necessità di una manovra correttiva? Ma noi non speculiamo in genere su queste cose, vediamo, all'inizio di novembre presenteremo delle nuove previsioni sulla base della legge di stabilità per il 2015 che sarà presentata dal governo, e a quel punto potremo. Ma parla di previsioni, non indicazioni, quindi le previsioni abbiamo visto spesso sono sbagliate. A volte le previsioni sono sbagliate, ma lavoriamo perché possano essere più accurate possibile. Renzi ha detto: non accettiamo direttive troppo vincolanti dall'Europa, piuttosto chiediamo i 300 miliardi promessi da Katainen. Arriveranno quei 300 miliardi? Questo è stato un annuncio non di Katainen, ma del presidente eletto della Commissione. Sì, esatto, Juncker. Ha ragione. Lei pensa che arriverà? Questa sarà la nuova Commissione, lavorerà su questo obiettivo. Allora, è vero, così appunto il portavoce di Katainen che dice di commissariamento parlate solo in Italia. Vabbè, vedo molti messaggi sull'Enit, è vero che poi ogni regione ha il suo ufficio del turismo, ma su quello abbiamo detto mille volte, non andrà mai avanti il nostro turismo se continuiamo a fidare alle regioni. Basta, chiudete, levate il turismo alle regioni, è cosa troppo importante per essere lasciata alle regioni. Chiudete l'Enit e facciamo un piano nazionale di promozione turistica serio, definitivo, in cui, per dare bel esempio, chi occupa quella posizione lo fa a titolo gratuito per un anno. Vediamo se si riesce a dare qualche... Io glielo darei a Andrea Guerra, così bravo. Date la promozione turismo serio di questo paese a un manager che conosce i mercati come Andrea Guerra. Tanto, voglio dire, adesso mi odierà per quello che dico, può farlo anche gratis per un anno, ha preso un'ottima buona uscita e dimostra appunto come e quanto si può migliorare con un approccio manageriale, qualcosa che è stata gestita con tutti gli approcci possibili tranne quello manageriale. Va bene, ancora mi piace la battuta di Livio che scrive: ma i 1000 giorni di Renzi sono lavorativi? Speriamo di no, speriamo che siano inclusi i weekend, così diciamo, se no andiamo un po' in là col tempo. Allora, le parole del Presidente del Consiglio in audizione alla Camera. Nessun tema della Camera. Primo tema, i 1000 giorni, ultima chance per dopo il tempo perduto, l'ultima chance per recuperare un tempo che non abbiamo saputo utilizzare. L'Italia negli ultimi mesi ha interrotto la caduta, ma questo non basta, dobbiamo tornare a crescere. I numeri non sono più quelli devastanti di qualche mese fa. Nel 2012 abbiamo chiuso a meno 2,4, nel 2013, 9 mesi fa, abbiamo chiuso a meno 1,9, oggi siamo a meno 0,2. Ma chi si accontentasse di interrompere la caduta dovrebbe avere qualche sano problema per il quale farsi vedere da uno bravo. Noi abbiamo bisogno di ripartire e di tornare a crescere. Può essere felice la decrescita soltanto per chi non ha mai visto in faccia un cassa integrato. Può essere felice la decrescita soltanto per chi non sa l'odore un po' strano e innaturale di una fabbrica che chiude. Può essere felice la decrescita per coloro i quali non hanno mai visto un imprenditore vedersi respingere in banca una richiesta di fido. La decrescita non è mai felice. E allora il nostro obiettivo è quello di tornare a crescere, partendo certo dal numero degli occupati, il cui passo in avanti, più 83.000 tra il giugno 2014 e giugno 2013, è ancora decisamente insufficiente, vista la crisi che si è registrata negli ultimi 6 anni, con il sostanziale raddoppio della percentuale della disoccupazione, da circa il 7 al 12,6%. Noi abbiamo bisogno di rovesciare e reimpostare la scommessa politica e economica di questo Paese. Allora, sì, come sempre c'è, diciamo, della buona retorica anche in quello che dice il Presidente del Consiglio. No, una cosa, non è meno 0,2, non riniziamo col balletto per cui noi a giugno, luglio dicevamo attenzione, faremo 0, il governo manteneva 0,8. Presidente del Consiglio, l'Ocse ieri, il Centro Studi Confindustria dicono meno 0,4, se va bene facciamo meno 0,4, se no facciamo anche meno 0,5. Lo dico perché tra meno 0,2 e meno 0,4 c'è il doppio. Dopodiché, d'accordissimo che la decrescita felice sia una cavolata, l'abbiamo detto in tutti i modi possibili, la decrescita felice per come l'abbiamo sentita raccontare riguarda solo qualcuno che si mangia le brioche e dice quanto è felice la decrescita degli altri, ma il punto è un altro, il punto è che anche quest'anno dire che l'Italia non cala più come prima, bisogna stare attenti perché obiettivamente siamo praticamente l'unico paese che si becca ancora una recessione. Cioè, negli anni scorsi è vero che Malcomune non fa mezzo gaudio, ma c'era anche la Spagna in recessione, c'erano altri paesi in recessione. Qua la Francia per rotto la cuffia chiuderà col segno più. Dei grandi paesi dell'Europa siamo l'unico che ancora si becca un altro calo del PIL, quindi da qui bisogna partire, non dicendo abbiamo arrestato la caduta ma non ci basta. No, non si è arrestato niente, continuiamo a calare. Allora, le riforme producono crescita, stop al benaltrismo, dice il Presidente del Consiglio e aggiunge: sono anche disponibile a perdere consenso pur di farle queste riforme. Noi siamo disponibili a effettuare un percorso di riforme per cui alla fine si possa persino perdere il consenso. Io non credo, perché credo che gli italiani abbiano voglia di riforme, ma sono persino disponibile a perdere il consenso, sono disponibile a correre il rischio di perdere le prossime elezioni, non sono disponibile a correre il rischio di perdere tempo. Dopo il meteo e la pubblicità, altri passaggi dell'intervento, a partire da quello sugli stress test delle banche, ma anche l'intervento fiscale e sul mercato del lavoro. Cioè, quando poi parliamo di misure concrete, stiamo dicendo in maniera molto, lo so, banale: riforma del mercato del lavoro, eliminazione degli oneri burocratici per le imprese, qualunque impresa di servizi, commercio, manifatturiera, basta, fate la Bassanini per le imprese, autocertifichiamole, facciamole partire salvaguardando i controlli minimi, e poi gli ispettori li mandiamo dopo, e se uno ha mentito verrà punito con un aggravio di pena, ma fate partire, non si possono mettere 7 anni, 4 anni, 5 anni per aprire un impianto produttivo, quando in Spagna ci mettono 1 anno e mezzo, in Francia ci mettono meno di 1 anno, in Germania 1/2 anno, ma dai. E poi attenzione, la pressione fiscale, perché continuare a penalizzare chi assume attraverso l'IRAP obiettivamente sembra un atto di masochismo. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, dicevamo del fisco meno caro per il Presidente del Consiglio, serve però una strategia condivisa di riduzione fiscale del carico delle tasse sul lavoro, con la riduzione per la prima volta dell'IRAP. Dal vocabolario della politica europea è venuta meno la parola crescita. La stabilità è diventata un tutt'uno con l'Europa e si è perso il senso della crescita. Per noi investire bene i 300 miliardi di euro che Juncker ha dichiarato essere pronti da investire per il futuro dell'Europa, e del quale siamo nelle condizioni di chiedergli conto fin dalle prossime discussioni nel Parlamento europeo, utilizzare i 200 miliardi che vengono liberati dalla Banca Centrale Europea chiedendo alle banche italiane di fare la propria parte, io ho apprezzato la disponibilità per il momento verbale che le banche hanno espresso, e siccome in questi primi 6 mesi più volte ho incrociato le lame con le banche, oggi dico qui in Parlamento che se le banche italiane, che negli stress test a mio giudizio saranno comunque più forti di altre banche europee, perché bisogna anche smetterla con questa cultura della lamentazione e del piagnisteo per cui in Italia va tutto male, noi siamo quelli che hanno salvato le banche di altri paesi. Nessuno ha salvato le nostre banche. Se le banche sono disponibili a fare la loro parte, andando a investire finalmente i 200 miliardi non semplicemente sui titoli di Stato, ma recuperando la possibilità di finanziare le piccole e medie imprese, le realtà che investono, allora ci sono le condizioni perché il percorso di riforme abbia un significato e una efficacia molto più forte. Però, al termine dei 1000 giorni, il fisco dovrà essere meno caro e più semplice. Sì, speriamo non al termine dei 1000 giorni, ma anche prima del termine dei 1000 giorni. Allora, dagli 80 euro aggiunto al Presidente del Consiglio non è arrivato l'effetto sperato, ma è l'inizio. Non hanno dato l'effetto sperato, quindi lo riconosce anche il Presidente del Consiglio, ma è l'inizio. Adesso potremo fare di più, dovremo fare di più. Il Senato ha fatto passi in avanti nel portare a casa un risultato che sembrava improponibile. I sacrifici dobbiamo farli per primi noi. È un atto simbolico e vuol dire che non guardiamo in faccia a nessuno. E poi cambiare il diritto del lavoro, la riforma del lavoro, basta con l'apartheid tra lavoratori di serie A e quelli di serie B. Al termine dei 1000 giorni il diritto del lavoro non potrà essere quello di oggi. Io ritengo, assumendomi la responsabilità di quello che dico, che non ci sia cosa più iniqua in Italia di un diritto del lavoro che divide in cittadini di serie A e di serie B. Tu sei una mamma di 30 anni, sei dipendente pubblica o privata, hai la maternità, sei una partita IVA, non conti niente. Tu sei un lavoratore, stai sotto i 15 dipendenti, non hai alcune garanzie, stai sopra sì. Tu sei uno che ha diritto alla cassa integrazione, dipende dall'entità, dall'importanza, dalle modalità della cassa integrazione ordinaria, di quella straordinaria, di quella in deroga. Questo è un mondo del lavoro basato sull'apartheid. Personalmente dico a quella parte di sinistra più dura rispetto alla necessità di cambiare le regole del gioco sul lavoro, che per come la interpreto io, la sinistra è combattere l'ingiustizia, non difenderla. E dico però contemporaneamente a chi oggi dà poteri taumaturgici alla riforma del mercato del lavoro e del diritto del lavoro che per recuperare posti di lavoro occorre una politica industriale. Vabbè, fin qui però siamo, diciamo, a delle cose corrette, anche se già note, non voglio aggiungere altro. Vediamo poi di farla però questa riforma del mercato del lavoro. Oggettivamente adesso ha fatto bene Renzi a spiegare i mille giorni, ma ci dia anche le scadenze, la roadmap delle varie riforme, perché sennò diventa difficile continuare a ripetere le stesse cose senza vedere poi quello che è la scadenza. È chiaro che la prima scadenza adesso sarà la legge di stabilità a metà ottobre. Però, ancora dal 2015 tutele univoche e identiche nel diritto del lavoro. Nel 2015 dobbiamo partire con i nuovi ammortizzatori sociali, siamo già a metà settembre, va bene. Non c'è l'idea per ora di cancellare l'articolo 18, dice il sottosegretario al lavoro Teresa Bellanova. Mi sembra che ci sia un po' di confusione sotto il cielo del governo sull'articolo 18. E poi sempre Renzi, ma sull'ENI, ha detto: non accettiamo che uno scoop metta in discussione l'azienda, ci sono in gioco decine di migliaia di posti di lavoro. In questa era un'azienda che è la prima azienda italiana, la 22esima al mondo, è stata raggiunta da un'indagine. Lo dico qui in Parlamento che noi aspettiamo le indagini e rispettiamo le sentenze, ma non accettiamo che uno scoop metta in discussione migliaia di posti di lavoro. Oggi è intervenuto sull'Italia anche il ministro Padoan, che ha detto: dall'Italia sono arrivati molti fatti, non solo annunci. Negli ultimi 6 mesi abbiamo lavorato come pazzi ed emanato molte leggi. Abbiamo un enorme programma di riforme, forse troppo grande, ma siamo convinti che le riforme portino effetti. E il sistema delle pensioni italiano è tra i più stabili in Europa. Mille giorni servono a far sì che le misure mostrino i loro effetti. Non rimandiamo le riforme, le iniziamo adesso, ma i risultati arriveranno entro mille giorni. E poi una critica di Padoan al modello spagnolo, ha detto: sono capaci tutti di crescere con tagli disumani ai salari. In questo non ha torto, cioè la cura spagnola è arrivata a bloccare le tredicesime. Io non so se sia la cura adatta per l'Italia per fare un favore ai finlandesi e ai tedeschi, bloccare le tredicesime per avere un altro crollo dei consumi. Adesso arriviamo alla borsa, però vorrei aprire un piccolo spazio, visto che molto se ne è parlato, ne ha accennato oggi anche il Presidente del Consiglio, sulle aziende partecipate dagli enti locali, quelle che, secondo lo studio di Carlo Cottarelli, il commissario alla Spending Review, dove una su quattro, sono circa 5.200 in realtà, i bilanci di 1.075 sono off limits, cioè non si sanno, non sono disponibili addirittura, ma diciamo le 5.200 analizzate come conti sul 2012, ebbene 1.424 non sono redditizie, lo spiega lo stesso Cottarelli, cioè una su quattro va levata, cioè perché ce l'ha il comune, la provincia, la regione, non lo capiamo. Chiedo quali siano i motivi o quali possono essere le criticità su questo a chi invece ha e rappresenta una municipalizzata ma che chiude inutile, lo fa da anni. Mi riferisco al gruppo AGSM, la Multi Utility di Verona. Opera nel settore energetico, idrico e trattamento rifiuti, ha chiuso il 2013 con un utile di 6 milioni di euro e negli ultimi 7 anni ha versato al comune dividendi per quasi 100 milioni di euro. E tra l'altro sta anche investendo molto sulle energie rinnovabili. Negli ultimi 8 anni ha fatto 150 milioni di euro di investimento. Ingegner Gian Pietro Cigolini, buonasera. Buonasera, dottor Bazzoni. Lei è direttore generale. Buonasera. Io sono in conflitto di interessi con lei perché tifando Hellas Verona, voi siete lo sponsor dell'Hellas Verona, ed è l'unico problema che ho. Però mi dica una cosa, Quindi lo chiarisco subito. Voi siete bravi, avete fatto 8 milioni di euro di utile, quasi 6 milioni di euro di utile l'anno scorso e 100 milioni in 7 anni. Qual è secondo lei il problema delle partecipate? Il peso della politica? Le dimensioni? Cioè, dia qualche consiglio a Renzi o a chi vuole ascoltarlo in questo momento, visto che voi chiudete inutile. Ma credo che la risposta sia una risposta abbastanza articolata, che corre il rischio tra l'altro di cadere nel retorico a volte, perché gli interessi che rappresentiamo e che influiscono su di noi, quelli che chiamano gli stakeholder, sono diversi e a volte contrastanti. La pubblica amministrazione che chiede regole, chiede bilancio, chiede un equilibrio sociale nel rapporto fra utile massimo o contenimento della tariffa, per esempio. Questo è un problema. Rapporti sindacali che sono sempre più complicati rispetto al settore privato. Il settore privato, che secondo me è anche un po' più semplice da gestire, c'è proprio perché gli stakeholders del settore privato sono meno conflittuali, meno difficili da gestire. La cosa più difficile è gestire il mercato, il libero mercato, perché noi siamo chiamati a vendere, produrre e vendere energia elettrica, per esempio, nel libero mercato, ma con le regole del pubblico. E questa è la questione, l'attività più difficile da regolare. Quindi è facile dirlo, magari in una sintesi, potrebbe essere operare nel pubblico con la mentalità da privato. Non è una scommessa semplice da vincere. Però mi dica una cosa, noi sappiamo che quello che non rende profittevoli una partecipata su quattro è anche il fatto che non dovrebbero esistere, nel senso che esistono per motivi politici, per collocare i politici trombati, per mettere gli ex assessori, per avere anche uno scambio di favori. Allora, io lo so che chiedere a lei quant'è la pressione politica è come chiedere all'oste se il suo vino è buono, però voglio dire, lei non pensa che in generale la pressione politica, ammettiamo anche che lei non l'abbia ricevuta, che Tosi non le parli, che la giunta di Verona non vi dica nulla, cosa chiaramente non vera, ma anche perché sarebbe strano, è il 100% del comune di Verona, però non è che la pressione politica poi renda poco efficiente e quell'impresa lì invece che stare dentro un comune dovrebbe andarsene nel privato e in concorrenza? Beh, ho guardato con grande attenzione lo studio di Cottarelli, e lo studio di Cottarelli è inappellabile, nel senso che un grande numero di municipalizzate sono e rispondono ai criteri che lei ha detto. Però sarebbe sbagliato, a mio parere, generalizzare. La nostra società è nata nel 1898, e credo che si faccia fatica a dire che nel 1898 è nata con quello scopo e con quella finalità. Certo, poi se si vanno a vedere degli eventi che sono dettagliatamente descritti nello studio di Cottarelli, non possono che cadere le braccia. Effettivamente in taluni casi la pressione politica, piuttosto che una gestione non improntata a efficienza, efficacia, tutto quello che si dice in materia, insomma, non ha dato prove di grande risultato, e questo giustifica un intervento radicale di revisione. Nello studio Cottarelli c'è scritto che si ipotizza una regola unica, un sistema di normative complessive che vada a regolamentare il comparto delle ex municipalizzate. Oggi sono quasi tutte strutture di diritto privato, società per azioni o società a responsabilità limitata. Però la regolamentazione di queste società va fatta proprio per renderle coerenti con le regole del mercato, perché altrimenti lavoriamo con regole diverse su ambienti identici. Certamente il piano di Cottarelli, a mio parere, è sostanzialmente condivisibile. Alcuni dei principi che enuncia non li condivido personalmente. Laddove si demonizza il pubblico, laddove si dice che l'affidamento diretto è di per sé indice di scarsa qualità, di scarsa efficienza, secondo me si rischia di buttare via il bimbo con l'acqua sporca. Ho capito il suo ragionamento, devo dire una cosa adesso. Noi siamo perché la maggior parte di queste municipalizzate è controllate dagli enti locali, vengono messe sul mercato privato e vengono messe in concorrenza. Poi alcuni servizi, se ben gestiti, e appunto mi riferisco non all'ATAC di Roma o alla Cotra del Lazio che perde 15 milioni all'anno, la CMV di Venezia che ne perde 20 o la FIA di Roma che ne perde 16, possono essere mantenuti con il pubblico. Grazie al direttore generale del gruppo GSM Gianpietro Cigolini. 18:09, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso arriviamo ai dati, alle previsioni del Centro Studi Confindustria. La borsa oggi, vi dovete accontentare di me, meno 0,30% Milano come Francoforte, meno 0,44% Parigi, meno 0,18% Londra. L'America guadagna 0,5%. E tra i titoli segnalo in positivo Fiat più 1,30%, numerose dichiarazioni oggi di Marchionne, che tra l'altro nel giorno in cui Fiat ha annunciato che salta il roadshow, quindi la presentazione agli investitori prima della quotazione di Fiat Chrysler a Wall Street, la quotazione attesa, lo ricordo, per il prossimo 13 ottobre. C'è anche una dichiarazione di Marchionne su Renzi: l'Italia ce la farà, quando non lo so, e a Renzi sono disposto a far vedere la realtà di Fiat Chrysler a Detroit. Per quello che riguarda invece il gruppo Fiat, Marchionne ha detto che Fiat sta ripartendo un po' alla volta, e l'Alfa Romeo però è tutta da rifare. Lasciamo stare il prodotto, è tutta da rifare. Vabbè, sul piano marketing di Alfa Romeo, va bene, iniziate. E ancora, per quello che riguarda i titoli in positivo, oggi c'è anche Eni più 0,75%, guadagnava anche l'1,1%, ha recuperato dopo il periodo negativo seguito all'inchiesta che ha coinvolto anche il numero uno Claudio Descalzi. Per quello che riguarda invece altri titoli, segnalo positivo Vuodio di Free più 0,50 come Campari e Pirelli, ma anche Xor, la controllante di Fiat, negativa Jux dopo i dati brutti arrivati dalla concorrente inglese Asos, e quindi per come effetto cala anche Jux. Monte dei Paschi debole come altre banche, meno 3% Monte dei Paschi, Azimut meno 2,60, Pop Emilia Romagna meno 2 come il Banco Popolare, che fa meno 1,80 per la precisione, Buzzi Unicem meno 2,33%, A2A meno 2, Autogrill meno 2,60%. Infine debole Finmeccanica, anche se sono arrivate 4 offerte, Finmeccanica perde l'1,30%, non vincolanti per la divisione trasporti del gruppo. Migliori e peggiori: Prima Industria più 6,60, Expert System più 5,80, Full Six più 4,40. Peggiori: Seat Pagine Gialle meno 7%, Poligrafica San Faustino meno 5,30, Mer Tecnimont meno 4,90%. E dicevo, all'indomani dell'Ocse, oggi, che ieri ha stimato un meno 0,4%, oggi, praticamente quasi in contemporanea con l'intervento del premier Matteo Renzi alla Camera, i dati, le nuove previsioni diffuse dal Centro Studi Confindustria. Siamo in collegamento con il direttore del Centro Studi, Luca Paolazzi. Buonasera. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora Luca, visto che sei un collega, non riesco a darti del lei mai in diretta. Iniziamo dalla stima vostra, che è identica, e non è che questo ci conforti, con quella diffusa dall'Ocse ieri: meno 0,4% quest'anno e più 0,5% nel 2015, dimezzata la stima per il 2015, ma ci arriviamo tra un attimo. Sul 2014, come mai? Questa è la richiesta che ci arriva più spesso dagli ascoltatori. Anche voi a giugno prevedevate un modestissimo rialzo, quindi 0,2%, e nell'arco di 3 mesi, sostanzialmente da un più 0,2% che avrebbe fatto parlare di una leggerissima ripresa, dobbiamo invece constatare che avremo un altro anno di recessione, meno 0,4%. Perché se escono dei dati nuovi siamo costretti a cambiare opinione. Quando abbiamo elaborato le stime a giugno non erano ancora disponibili i dati del secondo trimestre, c'era stata una delusione per quanto riguardava il primo trimestre. Dopo il segno più modesto del fine del 2013, tutti si aspettavano un po' di rafforzamento all'inizio di quest'anno, e poi un via via lieve accelerazione. Quello che è successo invece è stata una caduta nel primo, e da lì elucubrazioni sul fatto che ci fosse un qualche problema statistico e quindi un possibile rimbalzo nel secondo, e invece poi i dati sono usciti via via: dato di produzione industriale a maggio, poi quello un po' di rimbalzo a giugno, la caduta di nuovo a luglio della produzione industriale, i dati del secondo trimestre che sono stati pesanti, l'acquisito del secondo trimestre è meno 0,24%, quindi arrivare a meno 0,4% ci vuole molto poco, ci vuole una giornata di due giornate lavorative in meno che fanno quasi un decimo di punto, ed eccoci qua. Quindi se cambia il tempo, devo dire che è più nuvolo o c'è il sole, ma non è che posso non registrare il tempo che c'è fuori prima di mettermi a fare le previsioni. Ecco, usando questo esempio meteorologico, sempre per far capire agli ascoltatori che dicono anche quest'anno avete, cito le critiche che stanno arrivando, avete raccontato di una ripresa e del terzo anno che non c'è stata. Che cos'è che è mancato all'appello? Tu hai spiegato molto bene che dopo il primo trimestre, col segno meno, a sorpresa, avevate già rivisto le previsioni, ma ci si poteva attendere un rimbalzo. Ora sappiamo che il PIL si compone di servizi, agricoltura e industria come prodotto di un paese, e a sua volta noi lo distinguiamo sempre tra andamento dell'export da un lato e andamento della domanda interna, quindi dei consumi, dall'altro. Cos'è che è peggiorato di più rispetto alle vostre stime iniziali? Sta andando un po' peggio le esportazioni a causa di un rallentamento globale che c'è stato nella prima metà dell'anno, e anche a causa di quello che sta succedendo nell'area dell'euro in questa fase, perché non siamo solo noi a andare peggio del previsto, è tutta l'area dell'euro, la Germania si è fermata, quindi anche per la Germania sono stati errori di previsione, la Francia barcolla sull'orlo di una recessione, quindi ripeto, c'è un peggioramento del quadro internazionale, in parte spiegato, solo in parte spiegato, dalle tensioni geopolitiche, lo scontro fra la Russia e l'Ucraina, per esempio. L'altra cosa che è mancata sono gli investimenti. Tutti si aspettavano un recupero più forte, fuori dalle costruzioni, ben inteso, parliamo di macchinari e attrezzature. C'è stato qualche segnale in questa direzione in termini di miglioramento degli ordini, portafogli di ordini dei produttori di beni investimento, e quindi questo faceva pensare a un recupero su quel fronte, anche grazie al miglioramento delle condizioni finanziarie e all'attesa di miglioramento della domanda in generale, ma anche lì appunto questo non si è verificato. L'impressione è che il paese marci su due binari, o meglio, c'è una parte dell'economia che reagisce e che si internazionalizza, che innova, e c'è una parte invece dell'economia che rimane ferma, ancorata alla domanda interna. Credo, diciamo, che ci sia anche poi l'elemento, come dire, della difficoltà di gestione della crisi da parte dell'Unione Europea e dell'Unione Monetaria Europea. Allora, dicevamo con il direttore del Centro Studi Confindustria Luca Paolazzi, il 2015, voi stimate un più 0,5%, dite però attenzione, una crescita tutta da conquistare, vorrei sapere perché, e voglio dire, le misure della Banca Centrale Europea, gli 800 miliardi decisi a giugno per le banche, a patto che li girino a cittadini, o meglio, alle famiglie, agli imprenditori, ma non per i mutui, e l'ultima misura di settembre, quindi l'acquisto degli ABS, dei crediti che le banche vantano di buona qualità ma che possono così incassare subito, non avranno un effetto, cioè non le contemplate nelle stime di crescita? No, le contempliamo, tra le condizioni favorevoli a un rilancio c'è anche miglioramento delle condizioni del credito, ci sono anche altri fattori internazionali, una ripresa della domanda mondiale del commercio internazionale grazie al forte e robusto traino degli Stati Uniti e un miglioramento delle condizioni in molti paesi emergenti, un cambio che deprezza, ci sono una serie di condizioni internazionali che migliorano. Il punto da sottolineare è che in questi anni quello che è stato, nonostante qualitativamente sia stato affermato più volte, quello che è stato sottovalutato è stata la distruzione di capacità produttiva e di capacità di crescere del paese avvenuta durante la crisi. Già noi eravamo un paese che cresceva molto poco, diciamo una capacità di crescita intorno all'1% l'anno scarso, adesso siamo addirittura in una situazione di stagnazione dell'economia come tendenza sua spontanea, se non addirittura leggero calo. Quindi, per dire, se stiamo bene andiamo indietro, invece che cadere violentemente. Questo fa sì che dobbiamo tener conto di questo fattore anche quando guardiamo agli ultimi due trimestri di quest'anno, perché finora abbiamo parlato della prima metà. Nella seconda metà, cioè il trimestre in corso, dati e le statistiche che sono uscite, dobbiamo aspettarci un altro piccolo segno meno, e lo stesso vale per l'ultimo trimestre di quest'anno. Questo ci porta a entrare nel 2015 in una situazione di come dire, marcia indietro. Quindi per fare quello 0,5 che sembra piccola cosa ed lo è nel confronto storico e confronto internazionale, noi dobbiamo cominciare a correre già dall'inizio dell'anno e arrivare, diciamo, a superare un 1-2% in corso d'anno. E per far questo occorrono condizioni come dire, favorevoli, esterne e interne. In parte noi le individuiamo, le indichiamo, in parte appunto sono, credo, da guadagnare con misure di politica economica sia all'interno dell'Unione Europea sia all'interno dell'Italia, ecco, più rivolta al sostegno della domanda. E vorrei venire nella parte finale proprio alle condizioni che servono. Ho capito il tuo ragionamento, dici, siccome entreremo nel 2015 frenando come una macchina, diciamo, per acquisire quella velocità media che stimiamo nel 2015, quindi un aumento dello 0,5, occorrerà accelerare molto per fare media poi nel corso dell'anno, visto che entreremo frenando. Addirittura a marcia indietro. Addirittura a marcia indietro, che è ancora peggio. Da questo punto di vista, le condizioni, voi avete alcune, le ricordavo io, dei vostri suggerimenti o auspici, però... Primo aspetto, gli 80 euro, io non voglio entrare nella questione gli 80 euro, sì 80 euro no, però è indubbio che sul fronte dei consumi non hanno ancora avuto un effetto. La domanda è, ce l'avranno oppure le condizioni di fiducia o sfiducia dei consumatori sono tali per cui anche chi li ha incassati li terrà sotto il materasso, e se il cavallo non vuole bere, cioè non vuole consumare in questo caso, non lo fa anche se gli dai 80 euro in più al mese? Ma io credo che la propensione al risparmio delle famiglie beneficiarie di 80 euro al mese sia nulla, quindi il punto fondamentale è che sono famiglie che hanno vissuto e probabilmente vivono tuttora difficoltà, significa bollette non pagate, arretrati degli affitti, rate di mutuo piuttosto che di acquisti beni durevoli, e questo fa sì, diciamo, che le prime cose da soddisfare sono quelle. Che vuol dire anche però che diciamo questi 80 euro possono, diciamo, nel medio andare a avere un effetto, tanto è vero che appunto noi li contiamo come elementi favorevoli, sebbene ritardati. Ma tu sei d'accordo? Peraltro i consumi sono l'unica componente di domanda interna che, seppure molto molto lievemente, nel primo e secondo trimestre di quest'anno è migliorata. Cioè è mancata, adesso sappiamo che i consumi sono molto deboli rispetto a un export che andava, ma in proporzione e in progressione è mancata più la componente industriale degli investimenti, quindi anche dell'export, che non i consumi, fermo restando che i consumi siano debolissimi e che l'export sia l'unica cosa che continua a crescere in questo paese, però è mancato forse più l'appello a quell'elemento. Una domanda per inciso e poi vengo all'ultima, ma i tuoi colleghi che abbiamo sentito in questi giorni, in queste settimane, facevano notare come uno degli errori di previsione fosse anche dovuto ai dati che arrivavano a fine 2013 sulla fiducia dei consumatori e delle imprese, e un tuo collega dell'Istat ci ha detto, beh attenzione, forse noi eravamo abituati a vedere che aumentava la fiducia dei consumatori e questo voleva dire che i consumatori si preparavano a spendere di più. Invece adesso, con questi chiari di luna, leggere che un consumatore è fiducioso sul futuro vuol dire semplicemente che lui non si aspetta di essere licenziato, non si aspetta che la situazione peggiori. È un po' diverso dirsi fiducioso perché mi aspetto che la situazione non peggiori, oppure come una volta perché mi aspetto che la situazione migliori. Non so se... Assolutamente sì, abbiamo fatto un approfondimento su questo nel rapporto scenari economici presentato a giugno, e dicevamo esattamente questa cosa. A questo si aggiunge il fatto che l'Istat ha cambiato metodologia, campione di rilevazione, e quindi, diciamo, il confronto col passato diventa più difficile e non sappiamo più quanto siano significativi questi indicatori. Però è vero, diciamo, che c'è una divaricazione che si registra non solo in Italia ma anche altrove. D'altra parte, quando tu passi attraverso una crisi e diciamo ne esci con ancora il posto di lavoro, con un'impresa aperta, dici scampato pericolo, sto meglio, forse ce la faccio. E quindi hai fiducia, ma questo non vuol dire come una volta che ti metti a consumare di più, hai solo fiducia perché pensi appunto che la tua situazione non peggiorerà. Veniamo invece all'ultimo aspetto, perché voi fate notare oggi che sulla manovra 2015 andranno reperiti quasi 16 miliardi di euro. Però attenzione, 18,6 in realtà, 2,7 già arriveranno individuati dai tagli del DL IRPEF, altri 16, dite attenzione, il rischio di copertura è elevato attraverso le coperture più tradizionali. Allora ti chiedo, vista anche la difficoltà di reperire risorse per la manovra, quale dovrebbe essere l'indirizzo del governo? Andare mantenere gli 80 euro, ma cercare anche di andare a una riduzione della tassazione sulle imprese, o non so, o lavorare sul DL lavoro e la sburocratizzazione degli oneri per gli imprenditori? Sono due cose diverse. I 16 miliardi ricomprendono anche la conferma di 9,7 miliardi necessari per gli 80 euro. Credo che il governo voglia andare in direzione di fare qualcosa di più, anche se appunto poi bisognerà capire come li coprono, e l'idea secondo noi è di puntare sulla competitività, quindi taglio del cuneo dal lato delle imprese e sugli investimenti, sia privati ma anche soprattutto pubblici, perché manca moltissimo in questa fase la domanda interna. Nel salutarti, Luca Paolazzi, insomma, visto che l'altro ieri l'Istat ci ha fatto sapere che la produzione industriale comunque è ancora sotto rispetto al 2007 di un 25%, io dicevo, come immagine, è come se un'impresa su quattro in questo paese fosse sparita, una su quattro non c'è più. È chiaro che non è così, perché poi hanno ridotto in media. Ma in parte è così. E tu già citavi il fatto che probabilmente la distruzione del tessuto d'impresa, che non è solo la manifattura, la fabbrica con decine di impiegati, è anche l'impresa artigiana, l'impresa commerciale, parliamo di impresa in senso esteso, è stata così forte che adesso c'è anche minor capacità produttiva. Torneremo mai al livello del 2007? Beh, questo ci auguriamo tutti di sì, nel senso che torniamo a crescere, torniamo al livello del 2007. Altra cosa è dire torniamo mai ai livelli che avremmo avuto nel 2007 senza la crisi, e la risposta è questo, è molto più dubbioso, ecco. Quindi la crisi ha lasciato un segno profondo, credo sia debba essere colta come un'opportunità per innovare di più il paese in tutti gli aspetti, in tutti gli ambiti, quindi gli imprenditori nelle loro imprese e il governo per quello che riguarda la macchina pubblica, i sindacati e i consumatori, e anche maggiore concorrenza interna. Grazie al direttore del Centro Studi Confindustria, Luca Paolazzi. Grazie a voi. Ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.